Alice nel paese delle meraviglie. La finta tartaruga era un personaggio triste e solitario. Quando Alice e il grifone si avvicinarono, sospirò come se il cuore le si spezzasse e i suoi grandi occhi si riempirono di lacrime. «Perché è così triste?» chiese Alice. «Sono tutte fisime», disse il grifone. «Non è affatto triste». Si avvicinò alla finta tartaruga e le chiese di raccontare la sua storia ad Alice. Ci fu un lungo silenzio e poi, dopo un profondo sospirone, la finta tartaruga cominciò a parlare con una voce profonda e lugubre. «Un tempo io ero una vera tartaruga». Ci fu un altro silenzio e poi continuò. «Quando eravamo piccole andavamo a scuola nel mare. Il maestro era una vecchia tartaruga. Ricordo che lo chiamavamo Testuggine». «Perché lo chiamavate Testuggine se non lo era?» chiese Alice. «Lo chiamavamo Testuggine perché lui così ci aveva insegnato», disse la finta tartaruga irritata. «Ti dovresti vergognare di fare delle domande così sempliciotte», aggiunse il grifone. Poi si rivolse alla finta tartaruga. «Va avanti, vecchia mia, raccontale dei giochi». La finta tartaruga sospirò tristemente e si asciugò gli occhi con una pinna. «Forse non hai mai fatto la conoscenza di una aragosta e quindi non puoi avere idea di come sia deliziosa una quadriglia di aragoste». «Infatti non lo so. Che tipo di danza è?» «Beh», intervenne il grifone, «devi formare una fila lungo la spiaggia. Due file!» gridò la finta tartaruga. «Foche, salmoni, tartarughe e così via. Poi si avanza due volte, ogni volta con una aragosta per compagno, si cambia aragosta». «E le si gettano!» gridò forte il grifone facendo un salto in aria. «Lontano, lontano in mare, fin dove puoi nuotare», aggiunse la finta tartaruga facendo dei salti selvaggi tutti intorno. «Poi fai una capriola», strillò il grifone. «Cambia aragosta di nuovo e torni a terra». Le due creature si sedettero e guardarono Alice. «Deve essere una bella danza. Mi piacerebbe vederla», disse Alice. «Vieni», disse la finta tartaruga al grifone. «Facciamole vedere come comincia. Lo possiamo fare anche senza aragoste, sai». E i due animali cominciarono a danzare con molta solennità intorno ad Alice, anche se ogni tanto la pestavano quando si avvicinavano troppo. Mentre danzavano, la finta tartaruga cantava una canzone che cominciava così. «Disse il nasello alla lumaca, corri forza, dai avanza, c'è il delfino che mi incalza, guarda come danza, la tartaruga con i granchi sul bagnasciuga, se ti vuoi un po' affrettare, anche tu potrai ballare, anche tu potrai ballare». Alice fu molto contenta quando la danza finì, ma disse lo stesso: «Grazie, è una danza molto interessante da guardare. E che canzoncina bella e curiosa!» La finta tartaruga aprì la bocca per ricominciare, ma in quel momento si udì un grido in lontananza: «Inizia il processo!» «Vieni!» disse il grifone e prendendo Alice per mano la condusse via in gran fretta. «Di che processo si tratta?» ansimò Alice, ma il grifone rispose solamente: «Vieni!» e corse più presto che poteva. Quando arrivarono, il re e la regina di cuori erano seduti sul trono. tutto intorno a loro c'era una folla di uccellini e di animali e l'intero mazzo di carte. Il fante di cuori stava davanti a loro in catene e in mezzo alle carte c'era un gran vassoio di pasticcini. Il re portava una parrucca sotto la corona e Alice immaginò che lui fosse il giudice e pensò che le 12 creature che stavano sedute tutte insieme in un recinto fossero la giuria. «Silenzio nella corte!» disse il re. «Araldo, leggi l'accusa!» Il coniglio bianco fece un passo avanti e suonò 3 squilli di tromba. Poi srotolò una pergamena e lesse. «La regina di cuori, un bel giorno d'estate cucinò dolci torte e frittate. Il fante di cuori si avvicinò al forno e rubò tutto in pieno giorno.» «Chiamate il primo testimone», disse il re. Il coniglio bianco chiamò. «Il primo testimone!» E il cappellaio entrò nella corte. In una mano aveva una tazza di tè, nell'altra una fetta di pane e burro. Chiedo scusa a sua maestà per aver portato questi, ma non avevo finito di far merenda quando son venuti a chiamarmi. La regina si mise gli occhiali e cominciò a scrutare il cappellaio che impallidì e incominciò a balbettare. «Fate la vostra testimonianza e non diventate nervoso o vi farò decapitare sul posto», disse il re. Il cappellaio era così nervoso che dette un morso alla tazza di tè invece che al pane burro. Allo stesso tempo Alice provò una sensazione curiosa. Stava crescendo di nuovo. «Sono un povero uomo, maestà», disse il cappellaio. «Sei un misero oratore», disse il re. «Se questo è tutto ciò che sai dire, puoi lasciare la corte.» Il cappellaio s'allontanò in fretta ed entrò il seguente testimone. Era la cuoca della duchessa. «Di cosa son fatti questi pasticcini?» chiese burberamente il re alla cuoca. «Ma soprattutto di pepe», rispose la cuoca. «Di melassa», fece una voce sonnolenta dietro di lei. Era il ghiro. «Acciuffate quel ghiro!» strillò la regina. «Portatelo fuori dall'aula! Pizzicatelo! Tagliategli la testa!» Per molti minuti nell'aula ci fu una grande confusione finché il ghiro venne condotto fuori. Poi, quando tutto fu nuovamente calmo, la cuoca era sparita. «Non importa», disse il re. «Chiamate il prossimo testimone!» Con sua grande sorpresa, il coniglio bianco chiamò. «Alice! Eccomi!» gridò lei. Dimenticandosi di essere cresciuta tanto negli ultimi minuti, entrò dentro impetuosamente e urtò con l'orlo della gonna il banco della giuria. Tutti i giurati caddero in testa al pubblico e si sparpagliarono dappertutto. «Oh, chiedo scusa!» esclamò Alice e velocemente li rimise al loro posto. «Cosa sai di questa faccenda, tu?» chiese il re. «Nulla», rispose Alice. «Nulla di nulla?» «Nulla di nulla», replicò Alice. «Che la giuria emetta il verdetto», disse il re. «No, no!» gridò la regina. «Prima la sentenza e poi il verdetto!» «Ma che stupidaggine!» disse forte Alice. «Tagliatele la testa!» strillò la regina, ma nessuno si mosse. «Ma che me ne importa di voi?» disse Alice, che era tornata alle sue proporzioni normali. «Non siete altro che un mazzo di carte!» Alle sue parole, tutto il mazzo di carte si levò in aria e volò sopra di lei. Alice emise uno strilletto e cercò di scacciarle. All'improvviso si ritrovò sulla riva del fiume, con la testa in grembo alla sorella che le stava togliendo dolcemente alcune foglie cadute dall'albero sul suo viso. «Svegliati, Alice cara», disse la sorella. Hai fatto un lunghissimo sonno. Oh, ho fatto un sogno così curioso, disse Alice, e raccontò alla sorella le avventure che aveva avuto nel paese delle meraviglie dal momento in cui aveva visto il coniglio bianco.